Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il piano iniziale era questo. Atterro a Wichita. Vado diretto in albergo. Il mattino dopo affitto una macchina e vado a incontrare il cliente a Parsons, che in condizioni normali dista circa un'ora e mezza di macchina. In condizioni normali, non sotto la tempesta del secolo. E allora dovevo mettermi nelle mani di una guida Sioux, un discendente del popolo che viveva queste pianure prima dell'arrivo dell'invasore bianco. Sono Marco Bo, 42 anni, sono nato ad Asti, da una decina d'anni abito a Brescia, sono sposato, 18 anni e papà di due bambine. Perché ci sono dei posti che noi non conosciamo, ci sono dei luoghi in cui non siamo mai stati, che non abbiamo mai frequentato. E allora lì bisogna semplicemente mettere da parte la propria spocchia e la propria voglia di so tutto io e chiedere a qualcuno che conosce quel posto di portartici. Di solito si chiamano guide, cioè sono persone che magari lo fanno di mestiere, no? Capita in montagna di solito. Persone che ti pigliano, spesso ti caricano proprio di peso se sei sfinito e ti portano su seguendo un sentiero o semplicemente seguendo un passo, seguendo un ritmo. E poi invece ci sono altri tipi di guide, quelli che invece ti portano in luoghi sconosciuti che magari sono pericolosi, per cui bisogna conoscere qualche piccolo regolo, qualche piccola regola, no? Bisogna conoscere qualche trucco per sopravvivere in quei posti. Sono persone che semplicemente conoscono meglio di noi qualcosa. Ci affidiamo a loro e loro ci portano in un posto che noi non conoscevamo prima. Sono guide che lo fanno di mestiere, sono persone invece che semplicemente hanno voglia di darti una mano. Così, a farti fare un piccolo pezzo di vita con loro. Se vi è capitato di incontrare guide come queste, 349-238-6666. Oppure anche il profilo Facebook del programma che è Voi Siete... No, è Matteo Caccia, io sono qui, è sempre quello. Lo so, non si può cambiare, d'altra parte, dopo un tot di contatti non si può cambiare. Altrimenti scrivete una mail a voisietequi@radio24.it, che è anche la mail per ricevere i racconti che continuate a scrivere e per i quali vi ringrazio. Oggi si parla della storia di Marco Bo. Marco Bo, lo sentiremo più tardi, Marco Bo è proprio un affezionatissimo del programma, è da un po' che lo conosciamo, scrive molto e ci ha mandato diversi racconti. Abbiamo scelto questo però perché racconta di una figura, di una di quelle figure proprio che ti rimangono impresse, che magari incontri davvero per mezza giornata, per poche ore nella tua vita e in un modo o nell'altro te le ricordi come delle persone che ti hanno aiutato a fare qualcosa, perché non fosse altro che sono delle guide e quindi lo fanno di mestiere. 349-238-6666, voi siete qui, @radio24.it. Ieri sera proprio, prima di andare in onda, cioè prima di andare in onda era poco fa, ieri sera prima di andare a dormire, prima di oggi, stavo leggendo un articolo che c'era su Internazionale, ma non so se faccio in tempo a leggerlo adesso, ma sì, magari lo accenno. C'era un su Internazionale della settimana scorsa, eccolo qua, è un articolo che Jonathan Franzen ha scritto per il New Yorker, che è uscito su New Yorker credo un paio di mesi fa, no? Sempre più o meno un paio di mesi di ritardo. Si intitola L'isola più lontana. Jonathan Franzen, dopo aver fatto 4 o 5 mesi di tournée per presentare il suo nuovo libro che si chiama Libertà, aveva deciso di pigliarsi un po' di tempo per sé e aveva trovato questo posto che era un'isola a sud del Cile. È un'isola che si chiama, adesso ho perso, eccolo qua, Masafuera, che credo voglia proprio dire il posto più lontano. Lui ci arriva per rimanerci da solo, completamente, e per rileggere Robinson Crusoe. E per raggiungere la parte più alta di quest'isola lui ha bisogno di una piccola guida. Questa piccola guida si chiama Danilo. Insieme a lui c'è un mulo dall'espressione impassibile, dice. Danilo girava con in spalla un fucile, con cui sperava di uccidere una delle capre di una specie importata, che erano sfuggite alla campagna di un'organizzazione ambientalista olandese per eliminarle. Io e Danilo arrivammo all'acqua Cuciara, che era il posto dove lui doveva stare, prima di quanto mi aspettassi, e scorgiamo nella nebbia i contorni di un piccolo rifugio. Danilo scaricò il mio zaino dal mulo e mi condusse lungo un sentiero nebbioso fino a un ruscello in cui gocciolava abbastanza acqua da formare una piccola pozza. Gli chiesi se da lì fosse possibile raggiungere a piedi Los Inocentes. Lui puntò il dito verso l'alto e disse: «Sì, sono 3 ore». Pensai di chiedergli se potevamo andarci subito in modo da potermi accampare più vicino a quel posto, ma Danilo sembrava impaziente di tornare sulla costa. Ripartì con il mulo e il fucile e io mi dedicai ai miei compiti robinsoniani. Questo è un pezzo di un articolo di Jonathan Franzen. Oggi si parla di guide e la storia più interessante delle guide di oggi è quella di Marco Bo. Wichita io la conoscevo solo per via di un disco di Pat Metheny che si chiama As Falls Wichita, So Falls Wichita Falls, che è un po' un classico per noi che ci piace il jazz ma non vogliamo le parti difficili, per noi che ci piace l'America ma preferiamo che ci sia qualcuno che ce la racconta perché ci fa un po' paura. Io invece ho scoperto che Wichita non è solo un fiume con delle famose cascate o un posto dove ambientavano i film di cowboy, è una cittadina vicino alla quale la mia società ha un cliente, a Parsons, nel Kansas. E se non mi ci avessero mandato, ve lo dico, io non ci sarei mai andato. Niente di personale, insomma, però è un posto in mezzo al niente. Perché andarci? E non che la prima impressione sia stata esaltante. No, innanzitutto è nel bel mezzo degli Stati Uniti. È il punto più lontano da ogni costa, da ogni oceano. E non so perché, ma i luoghi così lontani dal mare mi hanno sempre provocato un senso di claustrofobia, di angoscia. E dire che io arrivo dall'entroterra piemontese, proprio quello più entroterra che c'è. Non lo so, sarà perché in America tutto è più forte, più grande. Sono più potenti le sensazioni, più gigantesche le distanze, più lontani gli oceani, più profondi gli orizzonti, più freddo il freddo e più caldo il caldo. Non lo so. Io viaggio per lavoro, ma ogni posto nuovo è sempre un mistero. Non ci si abitua mai alle novità. E forse è un bene, no? Sennò vivrei in un incubo, con tutti i chilometri che faccio, tutti i giorni, tutto l'anno. Io sono un venditore ambulante. Sono un venditore ambulante transoceanico. E Wichita mi è, si è presentata bianca e gelata quel giorno, nel bel mezzo di una bufera di neve. In quella stagione non era una sorpresa, ma si trattava di un evento particolarmente significativo, a detta dei giornali. Ecco perché per raggiungere Parsons mi ci sarebbe voluto John Dakota, guida Indiana Sioux. Perché a loro non li ferma niente. Sono un commerciale estero, sono l'uomo del trolley e della valigetta che parte e va in giro per il mondo a vendere prodotti nel ramo, diciamo, dell'idraulica. Il mio lavoro mi appassiona, incontro molta gente e poi il viaggio in posti anche sconosciuti, devo dire a volte con sacrificio, ma in sostanza è l'incontro è quello che mi appassiona e poi di lì ovviamente c'è l'oggetto del mio lavoro che è la vendita. E quindi il piano iniziale era questo: atterro a Wichita, vado diretto in albergo, il mattino dopo affitto una macchina e vado a incontrare il cliente a Parson, che appunto in condizioni normali dista un'ora e mezza di macchina. Sì, in condizioni normali, non sotto la tempesta del secolo. E allora dovevo mettermi nelle mani di un indiano, anzi di un nativo americano, come bisogna chiamarli per non risultare politicamente scorretti. Un discendente del popolo che viveva queste pianure prima dell'arrivo dell'invasore bianco. Chissà se ce l'avrà con me. Forse dovevo dirgli che noi italiani non c'entriamo niente, almeno questa volta. Fuori ci sono 20 gradi sotto zero. E dentro la stanza dell'albergo non va tanto meglio. Però sono pieno di coperte e ho un piccolo frigorifero ben fornito. Ho dovuto far saltare 5 bottigliette mignon di whisky per sentire un po' di caldo, perché il riscaldamento sbuffava a stento aria tiepida. Sveglia alle 6:30, alle prime luci dell'alba, con un leggero mal di testa da dopo sboronza. John Dakota stava già là, in piedi, con un cappello a falde larghe vicino al suo pick-up 4x4. Quasi sembrava un destriero. Lo vedevo dalla finestra. Io ho indossato tutto quello che mi ero portato e sono sceso senza nemmeno fare colazione. Lui mi ha indicato la portiera e poi si è messo alla guida, in mezzo a una nevicata che avrebbe fermato un pinguino. Mi metteva chiaramente soggezione. Non era un tipo di molte parole. Lui, la guida indiana. Le poche cose che diceva erano testimonianze di prima mano. Sul sedile di dietro c'era suo figlio. Ci accompagnava perché anche le scuole erano chiuse per il maltempo. iPod, musica da rapper, faccia scura. Non sembrava il figlio di un indiano americano. Era arrabbiato, come tutti gli adolescenti. E non faceva niente per nasconderlo. Già mi raccontò delle riserve, dell'alcol, dei casinò, della fine di un popolo. E poi mi disse che gli indiani, le tribù erano tante quanto gli indiani, tante quanto i bufali, mi disse, che fino al secolo scorso si contavano a giornate. Infatti si diceva, sono passati 2 giorni di bufali. In realtà non mi ha mai provocato un timore particolare trovarmi in luoghi sconosciuti e lontani. Come carattere ho sempre avuto una propensione ad aver fiducia nelle persone che incontravo e quindi mi affido un po' alle persone, un po' alla sorte, ma altrimenti non si partirebbe nemmeno. Cioè il fatto di partire vuol già dire uscire da sé e affidarsi ad altri, affidarsi, avere fiducia nell'altro in sostanza. Io guardavo dal finestrino la grande pianura ricoperta di neve e di ghiaccio e provavo ad immaginare le mandrie, Quando provi a immaginarti le cose, finisce sempre che ti vengono in mente delle scene dei film. O almeno a me capita così. E a me sono tornate alla memoria Bella coi lupi e Piccolo grande uomo. Siamo arrivati a Parson. Una volta arrivati, padre e figlio si chiusero in un bar fino al mio ritorno, senza dire niente. L'incontro col cliente andò bene. Il cliente mi aveva chiesto come ero riuscito ad arrivare nella bufera del secolo. E io spiegai che mi ci aveva portato John Dakota, guida Indiana Sioux. Lui annuì e disse che era tutto chiaro. Al ritorno in albergo era già buio. Io salutai John Dakota e il figlio, che zitto zitto era stato ad ascoltare le storie del padre, e che mi salutò con un sorriso senza togliersi le cuffiette, e che forse era più fiero di quanto non voleva mostrare di essere un piccolo Sioux. Non ci tornerò a Wichita, Kansas. Questo è sicuro. Però sono felice di essermi lasciato trasportare in una terra dove i bufali una volta si contavano a giornate. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. Quando ho letto il racconto di Marco, mi sono ricordato che per un po' di tempo abbastanza breve ho fatto un lavoro che comportava viaggi all'estero. Era roba che riguardava la formazione aziendale, il team building, la motivazione, insomma, quelle robe lì. I vantaggi di quei mestieri erano due: era il guadagno più o meno buono e la possibilità di viaggiare. Una volta però finì a Dubai. Era il tempo in cui il 50% delle gru erano in azione in quella città nata dalla sabbia. Erano in azione per costruire il centro di smistamento delle merci più grande del mondo, per costruire l'aeroporto della Compagnia degli Emiri, il porto, che avrebbe dovuto fare concorrenza a Singapore, il grattacielo più alto del mondo, il primo hotel a 7 stelle lusso, insomma, l'ho vista proprio al suo meglio, Dubai. E faceva abbastanza schifo. L'unica cosa che mi è veramente piaciuta, oltre alla pista da sci al chiuso, è stato andare nel deserto. Era una roba semplice, era una specie di gita su una Land Rover, che era guidata da un tizio in tunica bianca, ed era offerta dallo sponsor a me e a un collega. Però rimane veramente un'esperienza irripetibile. La cosa si trattava di trovarsi verso le 5 davanti all'albergo e salire su sta jeep, fine dello sforzo. Il resto era solo compito della guida. Doveva farci divertire sulle dune e portarci a una cena tipica beduina. Io lo sapevo che le dune erano una fregatura, allora mi sono seduto davanti, convincendo il mio collega che dietro sarebbe stato più comodo. Dovevo stare davanti o altrimenti vomitavo. E infatti ha vomitato lui. Sì, perché la nostra guida, che abbiamo scoperto essere yemenita, amava fare peripezie sulle maledette dune di sabbia che stanno subito dietro la città. Lo faceva un po' per mestiere e un po', secondo me, per sadismo, perché per noi era un piacere, ma di quelli che si provano sull'otto volante. E dopo un'ora di su e di giù, ci siamo ritrovati in mezzo al deserto, con lo stomaco sotto sopra, completamente nelle sue mani. Ecco, lì siamo scesi, o meglio, lui ci ha detto di scendere, che a noi sembrava un po' di essere due ostaggi. Invece no, l'ha fatto perché camminare a piedi nudi, nella sabbia, è meraviglioso. E nel giro di pochi minuti, e lui lo sapeva, ci sarebbe stato uno dei tramonti più commoventi che si potevano vedere. Con lui era sempre come essere sul filo del rasoio. Ti stava salvando la vita e te la stava mettendo in pericolo. Ti sconvolgeva l'apparecchio digerente e ti mostrava bellezze sconosciute. Ha mangiato di fianco a noi alla cena beduina, ma non ha mai detto una parola, né con noi né con i tizi della tribù che ci ospitava. E a cena finita ci ha caricati sulla jeep e si è messo a guidare nel buio più nero che esisteva. E tempo un'ora eravamo davanti alla porta del nostro hotel, sani, salvi e senza nemmeno aver pagato un riscatto. Noi non l'abbiamo nemmeno ringraziato, non avrebbe apprezzato. In fondo era una guida, no? Era il suo lavoro. Abbiamo lasciato nel Kansas e invece lo ritroviamo, credo, in Piemonte. Pronto, Marco? Sì, ciao Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, bene, ti ringrazio. Dove ti trovi, Marco? Sono a Brescia, in provincia di Brescia, dove vivo. Ah, vero, perché tu sei piemontese, sì, ma vivi a Brescia. Sì, sì, da alcuni anni, sì. Senti, sei a casa tra un viaggio e un altro o sei al lavoro? Sono in pausa, comunque al lavoro nel mio ufficio. Ah. Nel mio ufficio, mi sono preso un attimo di tempo. Grazie mille. Senti, fammi capire una cosa. Che tipo di cosa vendi che ti spedisce nel Kansas a Parsons a vendere qualcosa? Allora, è materiale idraulico. Si tratta di materiale che insomma, di cui c'è bisogno in qualsiasi parte del mondo. Tant'è che sono stato... Ma scusami, a me quando parli di materiale idraulico vengono in mente solo dei rubinetti. Invece non saranno quelli, no? Saranno tubi. Sì, sono dunque valvole, adesso sono contatori, in sostanza in tutto il mondo ce n'è bisogno, quindi c'è da viaggiare. E li facciamo solo noi a Brescia, tra l'altro. No, in realtà adesso in particolare la ditta è di Asti, di Nizza Monferrato, una zona che tu conosci. Io ho l'ufficio, la filiale a Brescia, in sostanza ho aperto... Ah, ok, quindi sei lì da solo. Organizzo l'export per questa... Ho capito. Ditta e viaggio. Ho capito, ho capito. Qual è stato l'ultimo viaggio che hai fatto, Marco? In ordine di tempo sono appena rientrato da un viaggio breve vicino dal sud della Francia, dalla Provenza. E il prossimo invece? Come? E il prossimo? Per il momento rimango vicino, Spagna, Inghilterra, diciamo trasferte facili in confronto ad altre che ti dicevo, dove sono stato in Kazakistan, Siberia, piuttosto che in tutta l'America Latina. Ma scusami Marco, ma in Kazakistan hanno bisogno di una roba che fanno ad Asti? Sì, cioè non c'è in Dagestan qualcuno cinese, che lo fa? Però non c'è in Iran qualcuno che lo fa uguale? No, solo noi ad Asti. Ma diciamo che siamo tutto sommato, nonostante la concorrenza, abbiamo ancora delle eccellenze. È difficile però... Però manteniamo la posizione. Senti Marco, però la tua è una storia particolare, perché tu hai una moglie che hai trovato in Nicaragua, no? Correggimi. Sì, io prima di fare questo lavoro per tanti anni, prima da solo e poi con mia moglie, con Jasmina, che è originaria del Nicaragua, siamo stati volontari all'estero in Centro America, Sud America ed anche negli Stati Uniti, una realtà un po' particolare per il volontariato, però ci siamo stati a Birmingham, in Alabama. Ma e volontari di cosa, scusami Marco? Si tratta di progetti di associazioni di volontariato in zone diciamo marginali, periferiche, come dicevo in centro, in Sud America, piuttosto che a Birmingham, dove lavoravamo in una comunità nei project, nei quartieri popolari di Birmingham, Alabama, con la popolazione. Ma scusami, comunità afroamericana. Era una cosa di cooperazione, di sviluppo? Sì, cooperazione allo sviluppo però di organizzazioni non governative. Ok, beh, quello lo immaginavo. Quindi sei uno di quelli che va tanto così dall'essere rapito? No, devo dire in senso di... Non negli Stati Uniti? Come? Non negli Stati Uniti, immagino. No, c'è da dire che in realtà forse i momenti più pericolosi in realtà li abbiamo vissuti in quelle periferie, perché sono periferie abbandonate, e ti posso dire che io sono stato in tutta l'America Latina, ma devo dire che diciamo una miseria e una emarginazione come abbiamo visto in quelle a Birmingham, in Alabama, nei project, devo dire che non l'ho mai vista in altri posti. Marco, quindi, senti, sì. Io ti devo salutare perché devo mandare la borsa, però volevo ringraziarti per il tuo racconto, e se ne hai altri, visto che ne hai mandato altri che erano molto interessanti, se ne hai altri noi siamo qui, voi siete qui, @radio24.it. Ti ringrazio. Ti faccio in bocca al lupo. Ciao Marco, grazie. Mille. Ciao, ciao, grazie. Adesso fatto. Non ce l'abbiamo fatta. Dall'altra vetta siamo a 261 metri dalla seconda vetta. Ecco. Prima vetta siamo... è stata raggiunta. Sì. No, guarda, non ce l'abbiamo fatta. Imbruscito dalla crisi del 29. Ringrazio Tiziano Bonini per mandare sempre puntuale questo episodio della mia sconfitta totale con la guida che diceva mancano 400 metri dalla vetta. 200. Guida di cui non ricordo neanche il nome, non mi ricordo più niente di lui. Stefano Perrone. Grazie Stefano di avermi portato a tanto così dal collasso. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Marco sta correndo nella foto che ci ha mandato, ma sta correndo seriamente, sta facendo una maratona, perché ha sul completino da corridore con un numero 678, c'è anche lo sponsor, Spaghetteria La Colonna, però non riesco a leggere dov'è. È vestito da corridore impeccabile. L'unica cosa, Marco, ti prego, è che ha la magliettina che si vede che spunta da sotto i pantaloncini. Sai quando ti tiri la maglietta sotto, probabilmente tra i fili anche un po' nelle mutande, e spunta da sotto i pantaloncini blu. Ha un volto sorridente, sembra un po' cacà quando arrivò al Milan qualche anno fa. Sta correndo in campagna, presumibilmente la campagna piemontese. La strada asfaltata e dietro di lui grano a perdita d'occhio. Voi siete qui. 349-238-6666. Io vorrei sapere chi è che sta in questo studio prima. È Carlo Genta che sta qui dentro. Ci saranno tipo 12 gradi qui dentro. Se mi viene vabbè, poi ne parlo con lui. 349-238-6666. Davide scrive: campo di lavoro in Ghana, 1998. Prima lunga esperienza lontano da casa. Giriamo con un volontario ghanese senza sapere dove nelle sue mani. Sbarrimento in balia degli eventi. Un'esperienza unica e irripetibile. E poi Teresa invece scrive: è il personal shopper? È una guida? Per qualcuno sì. Che orrore. Ma perché, scusami? Se uno non sa dove andare, c'è uno che ti guida. C'è tra l'altro un sito molto interessante che ho scoperto di recente. Te ne avevo parlato, Tiziano, non mi ricordo come si chiama, quindi dirò una cosa senza nominarla, per cui è come se non avesse senso, però un po' ce l'ha. È una sorta di nuovo sito, dopo lo carichiamo su Facebook. È un sito che ti porta a incontrare delle guide che non sono delle guide professioniste, si trova solo a New York e a San Francisco. Ti fanno fare delle cose che loro sanno fare o che loro conoscono e che conoscono solo loro, e quindi sono fuori dai circuiti normali delle Lonely Planet o delle guide turistiche abituali. Tipo, vuoi andare a San Francisco e stare in giro 2 ore con una moto da corsa? Sali sulla moto di questo tizio, sperando di tornare vivo, e spendi $150. Oppure, vuoi andare a New York in giro per questi tipici negozietti dove si vendono abbigliamenti di un certo tipo? Vai con Amy, che è una tizia che vive a New York. Eh sì, quella è una personal shopper. E costa $40. Non mi ricordo il nome del sito, però dopo ve lo linko. 349-238-666. Veniamo invece a un'altra storia che ha trovato Tiziano. Tiziano ha recuperato un PDF di Life, che è il magazine americano di costume, che è di un numero del 13 luglio del 1953. Cos'era successo qualche mese prima? Che per la prima volta un uomo, in questo caso due, erano arrivati sul Monte Everest, sulla montagna più alta del mondo, giusto? La montagna più alta del mondo. 8848, anche Gigi Donelli di Là dal Vetro se lo ricorda. Sì. Questa è una piccola parte di quell'intervista. L'intervista però in questo caso non è stata fatta al tizio che è arrivato, al tizio neozelandese che si chiamava Hillary. È stata fatta alla sua guida, allo Sherpa di Hillary, che si chiama Tenzing Norgay. E più o meno lui diceva così. Ero venuto a sua fatica, respirando male nell'ultimo tratto. Hillary mi aveva aiutato e dato un po' del suo ossigeno. Io lo avevo ricambiato guidandolo in un punto difficile. L'avevo tirato su di peso, con la corda. A metà salita pensavo che di nuovo non ce l'avremmo fatta. Poi invece avevo cominciato a sentirmi meglio. Dovevamo andare in cima. L'Everest è la mia casa. Questo è il mio lavoro. So fare solo questo, scalare montagne. Ho una moglie e 2 figli. Siamo poveri e quindi io non sono mai a casa. Nella mia famiglia solo io lavoro. Non abbiamo una casa nostra, non abbiamo terra. La mia famiglia fa la fame se io non vado in montagna. Ma a me piace scalare. Dicono che io abbia 3 polmoni, ma non è vero. Il dottore sostiene però che crescere quassù me li ha fatti diventare più grandi. Una volta in cima non pensavo nulla. All'inizio. Poi ho guardato Hillary. Lui mi ha preso la mano per stringermela. Ci siamo abbracciati, felici. Io guardavo ovunque attorno a me. Un giorno buono, senza troppo vento. Tutte le cime sotto di me sembravano tanti piccoli Buddha. Potevo vedere molto lontano. Hillary mi ha chiesto di piantare le bandiere e mostrarle per la foto. Piantammo quella inglese, quella del Nepal, delle Nazioni Unite e dell'India. Chi ha raggiunto la cima per primo? Ecco, questo è un problema. Perché se dico Hillary farei infelici gli indiani e i nepalesi, se dico Tenzing gli europei. Se non ti dispiace direi insieme io e Hillary. Per me e Hillary, indiani, nepalesi, europei, siamo tutti uguali. Il giorno dopo al campo dettai a uno sherpa una lettera alla mia famiglia. Questa lettera è da parte di Tenzing. Io, insieme a un amico, abbiamo raggiunto la cima dell'Everest il 29 maggio. Spero sarete felici. non posso scrivere di più. Spero mi scuserete. La penisola dello Yucatan con José, guida messicana, nel 2009 per il nostro viaggio di nozze, Andrea e Mary. Tanzania, la guida ci porta in un luogo spettacolare. Rimaniamo bloccati, ma per fortuna per poche ore in un punto con radio fuori portata e telefoni senza campo. 349-238-6666. Comunque l'Everest, mi dice Andrea, è 8848 metri. Io, e noi cosa? Ho detto, forse mi sono, forse ho detto, forse tu Tiziano mi hai detto giusto, ma io ho detto sbagliato. 8848. Carichiamo anche la foto, perché c'è una foto che Tiziano ha recuperato dal sito di Life, in cui c'è questo Sherpa, questo Tenzing, in cima alla vetta che tiene le bandierine. E la cosa strana è che invece non ci sono foto del neozelandese di Hillary. Oggi si parlava di guide e mi è arrivata questa mail. A voi siete qui, chiocciola Radio 24.it. È una mail che parla di una guida, diciamo, particolare, e mi ha fatto ridere perché se uno si inventa una storia come questa è veramente poco credibile. Poi la legge e pensa, forse veramente la realtà supera la fantasia. Quando mio marito ed io, ancora fidanzatini eccitati, stavamo programmando la nostra spettacolare luna di miele lungo l'intero Cile, mai e poi mai ci saremmo potuti aspettare questo. Arrivati a San Pedro de Atacama, abbiamo domandato al padrone del nostro alloggio una guida per visitare i dintorni. La mattina dopo, alle 6, mentre facciamo conoscenza con gli altri 6 viaggiatori che ci accompagneranno durante questi giorni di peregrinazione nel deserto, appare lui. Il sole alle spalle e la polvere ad incorniciargli la figura. Sbattiamo gli occhi, ce li stropicciamo, ci guardiamo in faccia l'un l'altro domandandoci: sogno o son desto? Perché lui, la nostra guida, è Zorro. Non ci sono dubbi. Il padrone della pensione ghigna soddisfatto e ci presenta la nostra guida. Noi, incerti se pensare che nel nostro caffè ci fossero sostanze psicotrope, ci avviamo e cominciamo l'avventura. Il nostro uomo ci scorrazza in giro per la regione per alcuni giorni, presentandosi ogni mattina con un personaggio diverso e cambiandosi all'ora di pranzo in uno nuovo. Il primo giorno resta quello più scioccante. Dopo aver amabilmente conversato con un raffinato e seducente Don Diego della Vega per tutta la mattina, ci fermiamo ad acquistare dell'acqua e dal retro del locale scompare Zorro per ripresentarsi niente meno che Superman. Noi continuiamo ancora a 8 anni di distanza a domandarci dove fosse nascosta la leggendaria cabina telefonica, quella di Clark Kent. La cosa straordinaria però del nostro uomo era che non solo cambiava il costume, ma cambiava completamente atteggiamento a seconda del personaggio. L'ultima interpretazione è stata comunque la più emozionante ed inquietante. L'uomo ragno. Per l'intera giornata la nostra guida non ci ha rivolto la parola e prima di salutarci, alla domanda «Perché te ne sei stato in silenzio?», lui ci ha guardato e ci ha risposto semplicemente che l'uomo ragno è malo, è cattivo, per cui non parla. Ci sono luoghi sulla Terra dove il magnetismo è decisamente più forte. Perché la cosa straordinaria è che lui non è che solo si vestiva, ma poi si comportava come quel supereroe. Pronto, Francesca? Ciao Matteo, eccomi qua. Ciao, buongiorno, grazie per essere qui. Senti, velocemente, non vogliamo disturbarti troppo, questo personaggio, come l'avete trovato? Esattamente come ti ho scritto. Noi cioè, siamo il proprietario dell'albergo ve l'ha esatto, fornito. Esatto, ma c'era un sovrapprezzo. No. Questa è la cosa bella. Noi abbiamo chiesto un piccolo tour che ci portasse in queste zone perché non sono raggiungibili da soli via macchina. Sì. E lui ci ha detto: non preoccupatevi, viene mio cognato domani mattina con un pulmino. E noi la mattina ci siamo trovati Zorro. Quindi era il cognato. Ma scusa, però non capisco, era lui che si divertiva a farlo o pensava che fosse un valore aggiunto? Allora, noi siamo convinti che fosse totalmente pazzo, perché Okay. Al di là del valore aggiunto, era veramente convinto di quello che faceva. Quindi, ti dico, il cambiare la personalità, l'atteggiamento, guarda, una cosa inspiegabile. tu mi hai mandato in un'altra occasione, potevi anche ridergli dietro, invece noi eravamo ammutoliti perché era proprio serio. No, poteva essere pericoloso. Tu mi hai mandato tre foto che noi abbiamo caricato sul profilo Facebook, che sono una da Uomo Ragno, una da Superman e una da Zorro. Ce n'erano altri? Era vestito anche da mummia e da uomo andino, e poi un'altra maschera che in questo momento non ricordo e non trovavo tra le foto. Comunque queste erano le più eccezionali, secondo me, anche le più riconoscibili. Andate a vedere sul profilo Facebook. Francesca, ti ringrazio molto, buona giornata. Grazie anche a te. Ciao, grazie. Grazie a Francesca, grazie a Marco che ci ha mandato il racconto, a Pietro Lacorta, a Tiziano Bonini, a Stefano D'Andrea e a Viola Bottoni. La storia di oggi era quella di Marco, quella di lunedì invece è una storia di Carlo e parla di Naya. Quella notte il tenente Giovannini arriva puntuale, o non sarebbe un istruttore, insieme a Carlo, gli allievi Scardino e Pietri, due ragazzi bravi a sparare come lui, maledetti come lui. I quattro si avvicinano ad un lince, Giovannini abbaia i suoi assistenti, incappucciateli e metteteli dentro.